non l'abbiamo scoperto con questa indagine, lo scopriamo quotidianamente in tanti servizi, in tante indagini. Quando quotidianamente noi sentiamo dire che in America ci sono le banche in difficoltà, le banche d'affari in crisi, in Svizzera, in Germania, è chiaro che siccome siamo un piccolo villaggio, non dico quello che capita agli antipodi dell'Italia, ma che capita alle nostre, alle porte del nostro paese, queste cose vengono immediatamente come dire, assunte dagli italiani che poi non conoscono molto bene questa materia, ma dicono lì ci sono degli scandali, quindi la finanza. Quello anche qui che è positivo è che noi siamo un paese al riparo, perché le autorità monetarie, le autorità di controllo confermano che noi, le nostre banche, non sono coinvolte in questi scandali, in queste situazioni di grande disagio. Il dato positivo è questa fiducia nell'Europa, cioè credere che essere entrati in Europa a pieno titolo è stato un fatto positivo, e salvo qualche critica sull'euro in prospettiva, questo gioverà al paese, quindi questo mi pare molto buono. Il fatto che gli italiani risparmino di meno rispetto agli anni passati? Beh, insomma, è chiaro che quando si risparmia di meno è un dato non positivo, però mi pare anche buona in ogni caso la propensione al risparmio, cioè anche quelli che sono in difficoltà però hanno questa sempre come dire, esigenza, cioè ritengono il risparmio un fatto positivo. Noi sappiamo che ci sono paesi nei quali non si risparmia per nulla, quello che si guadagna si consuma, punto e basta. Invece questo dato, che proprio il fatto di essere in difficoltà introduce un elemento di preoccupazione perché non si riesce a mettere da parte qualcosa, mi pare importante, mi pare positivo. Così come questo dato che oggi gli italiani investono meno nel mattone, negli immobili, più in strumenti finanziari che però a loro giudizio devono avere la garanzia del salvare il capitale, quindi vanno sui BOT, i CCT, cioè strumenti sicuri e che danno anche dei rendimenti, magari un po' più modesti, ma dei rendimenti sicuri. Quindi questo cambiamento della destinazione del risparmio mi pare rilevante.